Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Sergio Dompè, Missione Salute, di Anna Marino. Benvenuti a Voci d'impresa. Oggi parliamo di e con Sergio Dompè, nipote del fondatore dell'omonima casa farmaceutica, presidente di Confindustria e dal 1998 è presidente di Assobiot, che è l'Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie. Gli abbiamo chiesto innanzitutto qual è il suo rapporto con la missione salute. Costo di essere un po' controcorrente, diciamo, non le darò la risposta che forse lei si aspetta. Io ho iniziato a lavorare molto giovane e quello che mi ha guidato all'inizio è stato più che altro un desiderio di indipendenza economica e non solo, e una mia naturale inclinazione nei confronti delle fattualità. A me piace occuparmi di cose, mi piace entrare con le mani nei problemi, mi piace, diciamo, trafficare dentro il motore, come si dice in gergo. Quello che lei dice invece è subentrato dopo. Ho capito, vivendo, quanto una persona si può sentire privilegiata se riesce, facendo il suo lavoro, a gratificare, a rendere, diciamo, felice, a alleviare la sofferenza di persone. È un grande privilegio, in fondo. Noi tutti i giorni assistiamo a manager magari pagatissimi che fanno dei lavori che poi alla fine non possono piacere o vengono eseguiti in una maniera che non creano neppure un minimo di consenso intorno alle persone, e altri che magari, diciamo, hanno degli emolumenti, diciamo, molto molto più modesti, ma che si sentono più ricchi perché considerano come parte del proprio pacchetto fare qualcosa che piace molto. Noi, ad esempio, nel volontariato, nell'ambiente medico e nel mondo vicino comunque alla scienza, abbiamo tantissima passione. E la passione è un qualcosa che ti paga molto, e devo dire che la passione è contagiosa. Se tu fai parte di un team che ha forti dei valori, delle spinte, delle attitudini di comportamenti, poi facilmente ne viene coinvolto e te ne appropri. È una cosa, diciamo, lenta e inesorabile dal mio punto di vista. Certo, ho visto che lei ha portato, oltre a questi messaggi molto forti, anche diciamo una svolta all'impresa, per esempio appunto nel campo delle biotecnologie. E soprattutto, diciamo, volevo sapere come si arriva a questa svolta, e ovviamente partendo un po' dalla storia, che è quella che vogliamo un po' raccontare, la storia della famiglia fino ai nostri giorni. Noi siamo alla quarta generazione. Quello che credo accomuni da sicuramente mio padre e con moltissima probabilità mio nonno, e penso anche il bisnonno, ecco, quello che ha, diciamo, quali sono state le due guidelines della famiglia. La passione, come dicevo prima, io ho avuto un padre, mi spiego, che viveva di impresa, di voglia di fare. Tante volte mi ha ripetuto che la sua prima figlia era l'azienda, ancora prima, diciamo, dei suoi figli, perché era così, e a me sembrava perfettamente naturale, cioè lo capivo, non stava dicendo qualcosa che è contraria alla mia mentalità. E l'altra cosa è la discontinuità, per cui abbiamo sempre fatto lo stesso lavoro. Ma mio padre si era diviso dall'azienda paterna quando ha iniziato, lo stesso aveva fatto il nonno con il bisnonno, e a me di fatto è successo la stessa cosa quando ho voluto puntare fortemente sulle biotecnologie, fondando poi quella che sarebbe stata la Dompè Biotech, che era divenuta l'azienda biotecnologica più significativa nel nostro panorama, e che oggi si chiama Amgen Dompè. E questo, diciamo, anche una particolarità La sede all'Aquila, ecco, è legata un po' all'attualità. Che cosa ha comportato per voi questo momento così terribile? Una grande, diciamo, decisione strategica. Noi abbiamo investito all'Aquila quando nessuno faceva investimenti, credendo che per crescere noi avessimo bisogno di una sede tecnologica dove ci fosse un impianto stato dell'arte in termini internazionali, ed è stata la nostra fortuna. E poi siamo riusciti nella stessa sede a fare un accordo molto importante con il gruppo Menarini, che produce lì nell'ambito del nostro stabilimento, con una propria unità operativa, e anche questa, diciamo, è una formula decisamente innovativa, circa 50 milioni di pezzi all'anno, quindi una grande produzione. Oggi noi abbiamo saputo costituire, partendo da Sanofi Aventis e andando poi a Menarini e giungendo infine a noi, quindi le tre imprese farmaceutiche dell'Aquila, una bandiera della rinascita della città e dell'Abruzzo, a cui noi siamo molto legati perché c'è della gente meravigliosa. Ecco. Se lei mi chiede qual è la dote principale degli abruzzesi, degli aquilani in particolare, proprio la passione. Hanno un senso dell'onore, hanno un senso, diciamo, del lavoro che fa onore e che credo, diciamo, sia stato visibile da tutti. Mi è capitato in un programma televisivo di raccontare, diciamo, di una fusione societaria che noi abbiamo fatto pochi giorni dopo il terremoto, con un funzionario messo dell'ufficio del registro, che è andato di fatto, adesso sto, diciamo, caricando, ma per rendere l'idea, ecco, è andato a prendere le pratiche quasi da sotto le macerie per permettere di fare, diciamo, questa fusione. Questo è un esempio di come la gente poi si faccia anche voler bene, perché è un qualcosa di notevole proprio l'apporto del popolo abruzzese a quelli che sono i loro affetti e le cose importanti, naturalmente il lavoro è la prima, diciamo, dopo la salute e gli affetti. Certo, da qualcosa, cioè bisogna ricominciare e subito, e questa l'abbiamo vista molto bene. In 30 giorni noi, non Domte da sola, Sanofi Aventis, Menarini e Domte per ultima, abbiamo in 30 giorni fatto ripartire il 100% delle produzioni. È stato uno sforzo immane di cui andiamo molto orgogliosi. Non un operaio, non una persona legata a noi ha perso un euro di stipendio, e poi ci sono state tutta una serie di iniziative collaterali, dalle auto a chi ha fatto, come nel caso di Sanofi Aventis, la tendopoli nell'ambito della propria organizzazione, aiuti in denaro, prestiti a interessi zero, tutta una serie di provvidenze atte ad alleviare il loro dolore e la loro difficoltà enorme. Ricordiamo che lì, diciamo, c'è un 40-45% delle persone senza un tetto sopra la sera, facile dirlo, certo. ma prova, certo. Poi non gente che ha quattro case, per cui te ne va via una, diciamo, mi sono dispiaciuto, ma aveva altre tre, no, gente che spesso e volentieri aveva il 90-95% del proprio patrimonio economico, affettivo e di cose, di abitudini lì dentro, e che in una notte ha perso. E beh, questa collaborazione continuerà anche per il futuro? Assolutamente, nel senso... sì, non c'è nessun dubbio, noi andremo avanti e le altre imprese andranno avanti. Questa difficoltà enorme ci riempie di responsabilità e noi faremo la nostra parte come gli altri stanno facendo la loro. Ecco, questo è diciamo l'attualità a cui lei è legato, e che ovviamente è talmente pressante che mette in gioco proprio tutti i valori e tutte le energie, insomma, che si sono accumulate nel tempo. Ecco, ma questo per me è profitto, nel senso che, diciamo, ognuno vuole avere il piacere di vivere una vita legata, diciamo, a delle cose che ti piace ricordare, che per te hanno un valore. Ecco, e credo che ognuno di noi, così preso a bruciapelo e ammesso e non concesso, che sia tutti e due i valori ben oltre la soglia minima di sussistenza, perché sennò evidentemente entrano in ballo degli altri valori predominanti, ma credo che ognuno preferisca guadagnare la metà facendo un lavoro che ti piace moltissimo, in cui ti senti orgoglioso, da cui ti senti ripagato, piuttosto che guadagnare il doppio facendo qualcosa che tutte le mattine ti pone in difficoltà con te stesso. Questo lo ripeto in un discorso, tra virgolette, di lusso, dove uno si possa permettere di essere abbondantemente oltre la soglia, no? Delle necessità primarie e secondarie. Si chiude qui il nostro primo blocco, la prima parte di Voci d'Impresa. Rimanete con noi perché ci risentiamo tra poco dopo una piccola pausa.